America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York. Mario Platero. Barack Obama contestato ieri da Occupy Wall Street. That's okay. Okay, guys. It's okay. Okay, it's okay. That's all right. Avete sentito il presidente che cerca così in qualche modo di difendersi da questo attacco del tutto inatteso. Stava parlando di economia, ma oggi l'economia scatena passioni profonde e reazioni come quelle che avete sentito. Devo dire, Barack Obama non si aspettava di essere attaccato dal movimento Occupy Wall Street. C'è un elemento di incertezza su quello che sarà lo schieramento politico di questo movimento, che potrebbe, dal punto di vista dei democratici, contrastare l'influenza dei Tea Parties sulla mobilitazione della base per il Partito Repubblicano. Ebbene, da quel che abbiamo sentito ieri, Occupy Wall Street è pronto ad attaccare lo stesso presidente democratico, nonostante il movimento abbia delle radici democratiche. E questo è un sintomo, come vi dicevo prima, di quanto tesa e difficile sia la situazione. La supercommissione incaricata da Barack Obama e dal Congresso di trovare una soluzione non l'ha trovata. Gli Stati Uniti restano così un po' appesi al filo di meccanismi di tagli automatici che inevitabilmente andranno a colpire un po' dappertutto, e dunque andranno a colpire anche su voci di spesa per le classi della popolazione meno abbiente, quelli che soffrono oggi di più. La protesta è una protesta che si è rinvigorita dopo questo fallimento. Abbiamo visto le reazioni anche in borsa. Ieri le perdite a Wall Street sono state un po' più contenute, ma resta una fragilità di fondo per questa situazione di incertezza. Non si sa se il presidente riuscirà a passare o meno questo suo progetto per il lavoro. A fronte così di questa difficoltà così evidente, ripresa da tutte le televisioni americane, del presidente Barack Obama, avanza il dibattito fra i repubblicani ed emerge sempre più chiara la figura di Newt Gingrich come il candidato più temibile per Mitt Romney, che fino a qualche tempo fa sembrava avere la nomination già in tasca. Terrific job of answering an absurd question. To say in 30 seconds... You have said you want to repeal Obamacare, correct? Let me finish if I may. Newt Gingrich, calmo, tranquillo, è riuscito a vincere ieri il dibattito sulla sicurezza interna, è riuscito a farlo, direi, con una certa classe, e c'è stato anche un atteggiamento così più moderato, più di seconda fila da parte di Mitt Romney, che ha in qualche modo lasciato spazio a Gingrich. Perché? Perché Gingrich in questo modo è riuscito ad attaccare gli altri due candidati che sembravano emergenti, almeno per ciò che riguarda il caucus dell'Iowa, e cioè Ron Paul e Herman Cain. A questo punto però per Mitt Romney si pone un problema, perché Gingrich, ricordiamolo, è stato presidente della Camera, è stato l'artefice del decalogo che a suo tempo, parliamo della fine degli anni 90, portò a una doppia maggioranza repubblicana a Camera e Senato, e dunque un eroe della destra conservatrice repubblicana. E siccome il punto debole di Romney è proprio sul fianco destro, credo che la corsa stia cominciando ad assumere una fisionomia più interessante. Gingrich è sicuramente molto più credibile, molto più temibile, sia di Herman Cain che di Ron Paul. Al centro di questo scontro, ve lo dicevo ieri, ci sarà la tematica che riguarda quello su cui poi non si sono messi d'accordo i membri della supercommissione, e cioè: tasse, vogliamo prolungare i tagli fiscali di Bush o no? Vogliamo fare degli stimoli per l'economia, soprattutto per migliorare il tasso di occupazione o no? Vogliamo tagliare certe voci di spesa che in qualche modo vadano ad equilibrare quelle che sono le esigenze, come vi dicevo prima, delle classi più povere della popolazione? Ci sono una serie di tematiche che saranno oggetto della campagna campagna elettorale con un risvolto economico. Di questo ne parliamo con Giorgio Barba Navaretti, professore di economia alla Statale di Milano. Buongiorno Giorgio. Buongiorno Mario. Giorgio, hai sentito, c'è una situazione tesa anche negli Stati Uniti per ciò che riguarda le scelte economiche che si devono fare. Il presidente Barack Obama ha chiesto dettagli all'Europa, però a sua volta l'America non riesce a dare dei dettagli per la soluzione delle sue difficoltà economiche. Cominciamo da questo. Qual è la tua sensazione? Riuscirà l'America a venirne fuori? Io credo che l'America ne verrà fuori, perché sono sicuro che questa lunga trattativa poi porterà alla fine ad una soluzione per quanto riguarda la spesa pubblica americana. E comunque è interessante vedere come il mercato dei titoli del debito pubblico americano continui a rimanere appetibile, e quindi in qualche modo i mercati continuano ad avere fiducia negli Stati Uniti. Certo, rimane il nodo della crescita, che è un nodo molto importante in America come da noi ovviamente, ma io penso che le enormi risorse del mercato americano e soprattutto la flessibilità del mercato americano permetteranno presto di ritornare a una crescita. Dunque, a Cannes ho visto Barack Obama chiedere azioni, chiedere dettagli all'Europa. Questo significa chiedere dettagli e azione ovviamente alla Germania, che in questo momento pone il freno sia a manovre espansive da parte, o comunque a interventi da parte della Banca Centrale Europea, sia alla formazione di quello che sembrava un accordo già fatto il 26 ottobre, e cioè di un veicolo esterno all'FSF che fosse dotato di fondi di garanzia. Ecco, ci saranno questi dettagli, diciamo, dalla Germania o no? Beh, diciamo che stiamo un po' operando sull'orlo del precipizio, nel senso che è chiaro che è necessario mettere in atto al più presto delle misure di sostegno fiscale al debito sovrano dei paesi dell'Unione Europea, e non c'è strada alternativa a questo se non lo smembramento dell'Unione e il crollo dell'euro. Quindi un passo in questa direzione prima o poi dovrà essere fatto. Ecco, ma chiediamo quando sarà fatto, perché qui il tempo corre. Ma io, mi sembra che il gioco che si sta facendo è di lasciare deteriorare la situazione fino al punto in cui non è più possibile non intervenire. Il fatto che i mercati abbiano già preso di mira anche la Francia ci dà un'idea di quanto questo cancro stia allargandosi velocemente, quindi il tempo non è molto. Ora, il problema è che però per avere delle misure efficaci bisogna anche fare dei passi avanti verso l'unione politica, o perlomeno il coordinamento delle politiche fiscali. Se questo può essere fatto senza dover rivedere i trattati, allora evidentemente si può fare molto in fretta. Se invece richiedesse una revisione dei trattati, allora i tempi sono più lunghi, ma forse si può pensare a una strategia in più stadi, in cui si inizia con delle misure che in qualche modo rafforzano il coordinamento, come proposto anche ieri fra l'altro dalla Commissione, da Barroso, senza rivedere i trattati, e poi si inizia la trattativa più ampia di una riforma complessiva. Diciamo, il fatto che oggi ci siano dei governi credibili nei principali paesi in difficoltà in Europa non ha ancora permesso i mercati di stabilizzarsi, e questo in qualche modo sottolinea ancora di più l'importanza di trovare una soluzione politica coordinata a livello europeo. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguitemi su Twitter, @MarioPlatero, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno. Abbiamo sentito Obama contestato da Occupy Wall Street. Ci sono musicisti che stanno sostenendo il movimento, mettono le loro canzoni su un sito, alcuni musicisti famosi come Lou Reed, Laurie Anderson, Tom Morello, e di Lou Reed vi faccio ascoltare Perfect Day. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going! America 24.